Siamo con Marco Lucchesi, ideatore e regista dello spettacolo Il Capitale di Karl Marx, quasi un Vangelo apocrifo in 24 scene, dal 14 al 16 giugno al Teatro Argentina. Marco, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Ci racconti? È un'avventura questa, è un progetto che nasce che viene da lontano, un'idea che ho proposto al direttore del Teatro Nazionale Calpi, che ha accolto con tutta la sua struttura e ha dato poi vita ad un progetto speciale del MIBACT, questi acronimi impronunciabili, e ha avuto un anno di gestazione, di laboratori, con la consulenza scientifica dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, poi si è aggiunto il Conservatorio Santa Cecilia di Roma perché abbiamo deciso di inserire una parte d'opera all'interno dello spettacolo, alcune parti tratte da un'opera struggente, bellissima di Bagalov, Estaba la Madre, che è dedicata e scritta per la tragedia, diciamo, delle madri argentine, ma alle note e tutta la grandezza per accogliere altri dolori. Quindi la famiglia Bagalov ci ha permesso di trasferire delle parole, diciamo, dei concetti all'interno di questa opera. E per cui passo passo abbiamo trovato un sacco di compagni di strada che hanno creduto in questo progetto e stiamo per e l'abbiamo messo in scena, non stiamo Sì. perché domani ve lo facciamo vedere. Marx e non solo. Marx e non solo, innanzitutto perché, diciamo, nell'ambito di questo progetto della scuola di alta specializzazione, così si chiama, del Teatro di Roma, insieme agli attori, abbiamo lavorato diciamo, ad una pedagogia che prevedeva il trasferimento di alcuni concetti in altre forme, in forme narrative, in forme poetiche, ed alcuni di questi lavori sono stati inglobati all'interno dello spettacolo, in particolar modo un brano, diciamo, di Silvia Milton, uno di Alessandro Minati e uno di Anna Mallamaci, che a diverso titolo arricchiranno, diciamo, e racconteranno l'esperienza anche, diciamo, come possiamo dire, l'esperienza evocativa di questa lettura e di questo studio. In più abbiamo saccheggiato un pochino le idee di altri filosofi avanti e indietro nel tempo. Qualche piccolo furto ad Aristotele e qualche piccolo furto ad Alain Badiou, che io considero uno dei più grandi filosofi del Novecento. Ecco, considerati questi altri contributi, che mosaico hai voluto comporre? È un mosaico che racconta un pochino la vita di questo pensiero, nell'alto, nel basso, nel dialetto talvolta, così come anche nell'ironia di alcune situazioni. Quello che a noi interessava sottolineare in particolar modo era la necessità adesso dico un parolone, di risemantizzare la nostra vita, di ridare significato alle nostre parole o ad alcune delle nostre parole. E abbiamo cercato di farlo in vario modo, diciamo, attraversando queste 24 opportunità. Queste 24 scene non sono altro che 24 opportunità di far dialogare concetti, tesi, antitesi, cercando di ristabilire la necessità di dare un nuovo valore, un nuovo profilo, diciamo, alle parole che usiamo tutti i giorni. Siamo sicuri che, parlando di ricchi e di poveri, oggi abbiamo ben chiaro chi siano i ricchi e chi siano i poveri. Ecco, Sì, tanto per sì. Certo. usare la categoria più, come dire, più ovvia. Marco, quali sono nel pensiero di Marx le note più attuali e da valorizzare? Più volte chiesto perché Marx oggi, io rispondo perché Marx domani, nel senso che secondo me la cosa più interessante di tutta questa analisi non è tanto, diciamo, come dire, un'esegesi piano, cosa per la quale noi non avremmo neanche, io in particolar modo, non avrei neanche gli strumenti, tanto che abbiamo chiesto la collaborazione scientifica, diciamo, della Treccani per avvicinarci a tutto questo. Ma Marx ci dice che dobbiamo pensare, che dobbiamo analizzare, che dobbiamo avere un nostro punto di vista per guardare avanti. E io credo che questo sia proprio il nostro, la necessità del nostro futuro. Marx dice, adesso per fare una battuta, in soldoni, dice proprio questo, che dobbiamo rinnovare, coltivare l'attitudine umana al pensiero. E questo mi sembra il punto di vista più preciso, più interessante, più proiettabile nel futuro. Sì. Oh, qui a Roma e poi cosa sarà di questo lavoro? Questo lo sanno gli dèi, come si dice. Questo lo sanno gli dèi, tra i quali dèi ci sono i produttori, quindi il Teatro Nazionale, che una volta visto lo spettacolo poi farà le sue considerazioni. Diciamo, al momento noi siamo totalmente concentrati sul lavoro che debutta domani sera e poi speriamo ovviamente abbia una vita. È una struttura abbastanza importante, in scena 27 persone, anzi 30 compresi musicisti, quindi non è una cosa, diciamo, facilmente, diciamo, trasferibile, ma vediamo cosa accade, vediamo se il pubblico in qualche modo ritiene che possa essere un buon suggerimento, e poi credo l'anno prossimo si prenderà in considerazione o meno l'idea di potergli dare nuova vita. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Il Capitale di Karl Marx, quasi un Vangelo apocrifo in 24 scene, dal 14 al 16 giugno al Teatro Argentina a Roma. Un saluto e un ringraziamento a Marco Lucchesi che lo ha ideato e diretto. Marco, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie tante, buon lavoro a tutti voi. Un abbraccio caro, grazie. Ciao. Ciao.